Anquo Alessandro Mina e leggerai i giornali come uno che legge i giornali. E che tanti scherzi. 24 mattino. Signori, sono le 7 e 19 minuti, siamo qui pronti alla lettura dei quotidiani nella rassegna stampa di 24 mattino. Possiamo andare? Dai, mancano 17 sveglie all'alba ancora e poi sono vacanze. Avanti. Le Parlement européen est ridicule. Très ridicule. Je salue ceux qui se sont. Questo è il presidente del la commissione Juncker che dice il Parlamento europeo è ridicolo, è un po' la frase del giorno in questo mercoledì 5 luglio. Perché? Perché a parte Sole 24 Ore che apre sul via libera dell'Unione Europea al salvataggio di Monte Paschi Siena, la questione migranti è ancora bene in primo piano. Devo dire che molti quotidiani oggi aprono con una notizia che sembra quasi terrorizzante sui carri armati al Brennero, una non notizia visto che non c'è nessun carro armato al Brennero. Certo, c'è la minaccia dell'Austria di schierare i militari. Migranti, scontro con Vienna, il titolo di apertura del Corriere della Sera, mentre la stampa: migranti, lite Italia-Austria sul Brennero. Ma poi guardate, ci sono migranti, l'Austria schiera i blindati, il Messaggero. Mentre per il giornale, carri armati al Brennero. L'ho letto stamattina, ho detto, e che siamo nel 1939? E invece no, non c'è nessun carro armato, ma certo ci sono queste minacce e i titoli sono emblematici. Il giorno, migranti, l'Europa non c'è, c'è proprio la frase di Juncker, ridicolo l'Europarlamento e l'Europarlamento vuoto mentre lui parla. Sbarchi, Europa e Italia fanno a gara chi fa meno, è il titolo del Fatto Quotidiano, mentre il Manifesto titola Neuropa. Avvenire, l'Austria ha paura dei poveri migranti. La Verità, tornano i panzer al Brennero per obbligarci a tenere gli immigrati in Italia. E anche Libero, militari contro i profughi, l'Austria schiera l'esercito, c'è anche una foto di un carro armato, ma in realtà, ripeto, non si vedono. Repubblica, Ius Soli, il governo pronto alla fiducia, migranti sull'Italia, il gelo dell'Europa. Come vedete, il tema di apertura è unanime. Lo affronteremo anche noi, questo tema, come parleremo di questa proposta di legge che è apparsa per opera di un autore di un disegno di legge, Maurizio Romani, ex del Movimento 5 Stelle, medico, che propone questa cosa che prende spazio sul Messaggero e anche il Corriere della Sera, e cioè malattia, spunta l'autocertificazione. Sono nuove regole del lavoro, ovviamente è un disegno di legge che non credo farà molta strada, soprattutto in termini di legislatura, ma la proposta dell'onorevole Maurizio Romani è questa: disegno di legge che prevede il cittadino può autoassegnarsi fino a 3 giorni di malattia comunicandoli al medico che a sua volta ne invia notizia all'INPS. Secondo punto, ma forse meno importante, addio alla truffa perché i certificati vengono depenalizzati. Ma voi vi immaginate in Italia, il paese in cui il lunedì fioccano i certificati di malattia, casualmente il lunedì? Il fatto è che ogni anno, scrive il Messaggero, i certificati d'Italia ammontano alla bellezza di 18 milioni. Ogni lunedì che Dio manda in terra si tocca il picco settimanale perché gli italiani chiedono 120.000 certificati che sommergono regolarmente i 70.000 medici di base. E allora, come raccontano Giusy Franzese e Diodato Pirone a pagina 9 del Messaggero, questo onorevole propone questo: autoassegnarsi fino a 3 giorni di malattia da parte dei dipendenti. Il dipendente sta a casa per malattia, autocertificazione nei primi 3 giorni. Questo racconta anche il Corriere della Sera in una pagina. Io non so come andrebbe a finire, ma un po' il timore ce l'ho. Oh, ieri invece abbiamo affrontato, c'era anche il sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni che proponeva per Venezia un ticket d'ingresso, un qualcosa che però, dice lei stessa, è molto impopolare, mi rendo conto, ma a ogni estate si ripropone il solito tema. L'estate scorsa era così, due stati fa pure, e l'anno prossimo sarà lo stesso, con il dibattito non se ne farà niente fino all'estate successiva. L'estate a numero chiuso, ci sono le località, alcune di turismo, che scoppiano. A Capri c'è l'ultima guerra portata in campo dal sindaco. Come racconta Concita Sannino su Repubblica, pagina 18, il sindaco non ne può più e allora si mette lì, sul porto. E fa notare che alle 9.51 c'è uno sbarco, alle 9.59, dunque 8 minuti dopo, un altro sbarco, prima 600, poi 800 persone. E questo in barba a una vecchia disposizione che dilazionava gli arrivi di almeno 10 minuti l'uno dall'altro. Di fronte a questa mancata osservazione, il sindaco di Capri, Giovanni De Martino, esplode e dice: ora basta, scrive al prefetto, chiede aiuto a Ilaria Borletti Buitoni, a Dorina Bianchi, abbiamo instaurato contatti con Venezia, con le Cinque Terre, vogliamo il numero chiuso, troppe navi, basta anarchia. E soprattutto l'idea che un paradiso come è Capri deve rimanere tale, per rimanere tale deve essere ecosostenibile. E dunque ecco il dibattito che Repubblica allarga con un'intervista a Messner, Reinhold Messner, che parla delle sue Dolomiti, quelle che lui definisce il luogo più bello del mondo. E dice Reinhold Messner: l'unico modo per salvare le Dolomiti è la ZTL, la zona traffico limitato. Non penso al pedaggio, perché serve a guadagnare soldi ma non limita il traffico. Invece Messner vuole proprio questa idea di un traffico limitato. Si comincia adesso, tra l'altro, la chiusura del passo Sella è prevista ogni mercoledì di luglio, via libera solo ai bus navetta che porteranno in quota i turisti, e Messner sogna proprio questo. Sono 20 anni che chiedo la tranquillizzazione delle Dolomiti. Una montagna silenziosa da regalare a chi sale con le proprie forze, a piedi, in bicicletta. Le Dolomiti, il posto più bello del mondo, dice Messner, intervistato da Andrea Selva, possono diventare la prima destinazione mondiale per biciclette, mountain bike. Anche un vecchietto come me può salire con l'e-bike e godere le emozioni delle Dolomiti con lentezza, senza il rumore dei motori, senza il rumore del clacson. C'è troppo baccano. L'aggressività, quando il turista si ritrova in coda, che diventa aggressivo. La montagna è il luogo della lentezza e non della velocità. Non so se è un sogno, un'utopia, un sogno bello, per carità, quello di Reinhold Messner, di tornare in qualche modo nel futuro ad una montagna del passato, ma è quello che lui lancia in questa proposta a Repubblica. Voglio invece rimanere su Repubblica, perché questa vicenda che riguarda i vitalizi so che vi metterà di buon umore. Ah, vi voglio mettere di buon umore alle 7:27 minuti. Sapete che di recente i vitalizi sono stati sospesi per condanne passate in giudicato. Anche vicende che sembravano sepolte dal punto di vista giudiziario nella storia della Repubblica Italiana sono state rispolverate con un po' di lentezza da Parlamento, Camera e Senato per sospendere alcuni vitalizi. È durata poco. Sergio Rizzo racconta: condannati sì, ma poi riabilitati, e così l'onorevole si riprende il vitalizio. Guarda qui, Sergio Rizzo, pagina 9 di Repubblica. Gian Stefano Frigerio lo deve sapere, non tutto è perduto. Magari si tratterà di aspettare qualche anno, ma la sentenza di riabilitazione prima o poi arriverà. E allora il vitalizio da 2.200 euro netti al mese, che il Parlamento gli ha revocato ieri, dopo l'ultima condanna definitiva a 3 anni e 4 mesi per tangenti dell'Expo 2015, che ha patteggiato, tornerà a correre con tutti gli arretrati. D'altronde è successo così a Massimo Abbatangelo, deputato missino, 4 legislature, accusato della strage del Rapido 904 del 23 dicembre 84. Da questa gravissima imputazione venne assolto dalla Corte d'Assise di Firenze, dopo che in primo grado aveva preso l'ergastolo, ma si beccò comunque 6 anni per detenzione di esplosivo e la Camera gli presentò il conto nel 2015. Il 9 luglio di 2 anni fa l'ufficio di presidenza di Montecitorio gli ha revocato il vitalizio. Ma a ben 21 anni di distanza dalla condanna, è arrivata la riabilitazione e a Abatangelo, che ha chiesto di essere riabilitato, ha riottenuto il vitalizio con tutti gli arretrati. Così è successo all'ex democristiano Giuseppe Astone, che si era visto anch'egli revocare nel luglio 2015 il vitalizio da 5.200 euro netti al mese, causa una condanna a 5 anni e 10 mesi. Tutto riabilitato, gli arretrati ammontano alla metà di quello che ha preso a Abatangelo, considerato che la domanda di riabilitazione è partita solo il 4 ottobre 2016, ma ha ottenuto. E anche il terzo ex onorevole, al quale è stato restituito ieri il vitalizio, Massimo De Carolis, si dovrà accontentare di una somma di circa 40.000 euro, ma anche lui riabilitato. Condannati sì, ma sempre riabilitati, così l'onorevole riprende il vitalizio. La Camera ieri ha deciso di restituire per legge l'assegno e anche gli arretrati a tre ex deputati. Lo prevede il regolamento quando il Tribunale concede il ravvedimento. Va bene, siamo all'articolo invece che mi fa pensare della giornata a proposito di divieti, numeri chiusi, ZTL, le Dolomiti, le Stati, i dibattiti astrusi che poi ogni anno si ripropongono senza risolvere nulla. Ce n'è un altro, quello dei divieti di giocare a calcio. Lo sapete, è una cosa che a me da bambino, che ho giocato a calcio nei cortili, ho fracassato vetri, ho distrutto ceramiche di mia mamma con i fratelli, ne ho combinate più di Bertoldo. È una cosa che non riesco a capire. Sì, la quiete pubblica, sì, quelli che hanno il vetro rotto, sì, anch'io ho fatto, però ho stato dalla parte dei bambini. Non a Malo, in provincia di Vicenza, dove ci racconta Benedetta Centin sul Corriere della Sera, è arrivata una multa a bambini di 5-8 anni, meglio ai loro genitori, diciamo, che sono intervenuti, vigili urbani inflessibili. A Malo, giocare a pallone nel parco pubblico di un quartiere è vietato. E i bambini che dai 5 agli 8 anni si sono azzardati a farlo un pomeriggio della scorsa settimana hanno visto arrivare i vigili urbani, chiamati per l'ennesima volta da una residente infastidita dalla polvere e dagli schiamazzi. Multa di 150 euro per ciascuno dei baby calciatori, tra questi anche il nipote del vice sindaco. I vigili urbani non hanno visto in faccia nessuno. Lei non sa chi sono io, il bambino. No, 150 euro di multa. Giocate a calcio dove è vietato. Malo, Vicenza, Italia. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che, quando queste cose capitano, dice: sono cose che capitano. Alessandro Milan, il portoghese dell'informazione. E allora, alle 7:36 minuti, siamo qui a parlare di migranti. Allora, la notizia intanto è una non notizia. Tutti i giornali oggi titolano i panzer, i carri armati al Brennero. È bastata la dichiarazione del ministro della difesa austriaco a dire, si chiama Hans Peter Doskozil, a dire: schieriamo, siamo pronti a schierare l'esercito. Ecco, è partito, cioè ci sono titoli, appunto, sembra che ci sia l'invasione, o meglio la difesa, l'inizio di una terza guerra mondiale. Non c'è nessun carro armato, come Paolo Berizzi fa notare a pagina 3 di Repubblica. Alla frontiera i blindati non ci sono, dice il sindaco del Brennero, Franz Kompatscher. È solo propaganda politica, peraltro ingiustificata. Non ho ancora visto né blindati né soldati. Migranti se ne arrivano 8-10 al giorno e tanto. Li blocca la polizia italiana, la situazione è tranquillissima. La polizia austriaca ce la fa benissimo anche senza esercito. Anzi, ho l'impressione che gli agenti siano sottooccupati. Questo è il sindaco di Brennero. Questo a dire che forse, non lo so, l'Austria si è cautelata per una possibile situazione futura nei prossimi giorni, sapendo qualcosa, forse prevedendo che anche l'incontro di domani a Tallinn sarà un incontro con tante chiacchiere, ma con nulla di concreto. Sta di fatto che c'è questa notizia molto pompata sui carri armati al confine tra Italia e Austria, che mi sembra davvero una grande esagerazione. Sulla questione invece immigrazione, questo non è un tema secondario, racconta Beda Romano sul Sole 24 Ore come si sta muovendo l'Italia su questa emergenza, il codice per le ONG, la situazione in Libia, i rimpatri, via al piano europeo. Sulla scia delle pressioni italiane, scrive Beda Romano, per un sostegno nel gestire i flussi di migranti, la Commissione europea ha presentato ieri linee guida per aiutare l'Italia. Il piano, che prevede l'esborso immediato di altri 35 milioni di euro a favore dell'Italia, giunge mentre i ministri di interni dei 28 si apprestano a discutere della crisi migratoria a Tallinn tra domani e venerdì. Nella conferenza stampa a Strasburgo, il vicepresidente della Commissione europea Timmermans ha avuto parole di grande apprezzamento per il lavoro dell'Italia, ha parlato di situazione estremamente complicata, ha espresso grande ammirazione nei confronti delle autorità italiane e ha aggiunto è nostra intenzione dimostrare piena solidarietà con l'Italia. Ovviamente si spera che tutte queste non siano chiacchiere, rimangano vuote. Ecco, di certo vuoto, meglio semivuoto, era l'Europarlamento, tanto che il Presidente della Commissione Juncker ha rilasciato le dichiarazioni durissime, arrivando quasi allo scontro istituzionale, perché ha parlato di un Europarlamento ridicolo, anzi ha aggiunto tre ridicule, molto ridicolo. È l'ultima volta che vengo a parlare su questi temi. Deputati ridicoli, la lite tra Juncker e Tajani, che è presidente dell'Europarlamento, oggi viene intervistato da Ivo Caizzi sul Corriere della Sera e difende la situazione, dicendo il caso è chiuso, non c'è alcuno scontro ai vertici dell'Unione Europea, il problema sono gli interessi nazionali, quello con Juncker è un problema superato. Certo, c'è da dire che oggi Paolo Bracalini sul Giornale racconta che non è che Juncker sia uno, certo è arrivato lì, Parlamento semivuoto, ha avuto gioco facile a dire siete ridicoli. Non è che anche lui non abbia fatto in passato alcune gaffe o comunque alcune dichiarazioni che non lo hanno reso molto popolare. A parte che di Juncker si dice, o meglio il tabloid Mail on Sunday disse di lui è un ubriaco che beve cognac a colazione. Vabbè, questa è un'accusa abbastanza seria. Ma anche lui, Juncker, qualche volta si è lasciato andare alcune dichiarazioni poco diplomatiche, come quando disse sta arrivando il dittatore, salutando il premier ungherese Viktor Orban al vertice di Riga, ovviamente nel gelo tra i presenti, oppure disse un'altra volta ora devo vedere il presidente dell'Azerbaigian, questo significa che la parte bella della giornata è finita. Così Juncker, che stava per incontrare a Baku il numero uno dell'ex Repubblica Sovietica. E ancora, dopo l'elezione di Trump, dichiarò Juncker, perderemo 2 anni aspettando che Trump faccia il giro del mondo e lo finisca in tutti i posti che ancora non conosce. Va bene, Paolo Bracalini racconta sul Giornale che anche lui non è uno che non ha le sue gaffe, non ha i suoi problemi da affrontare. Tra l'altro, sui migranti non si riesce a mettersi d'accordo neanche sui numeri. Ieri il presidente dell'INPS, Tito Boeri, ha dato dei numeri interessanti, un rapporto dell'INPS con statistiche molto significative. Dice Boeri, attenzione a chiudere all'immigrazione, l'immigrazione nel senso quella ovviamente di persone regolari che poi lavorano eccetera. Nei prossimi 22 anni, secondo la proiezione di chiusura delle frontiere, ci sarebbero 73 miliardi di euro in meno di entrate contributive senza gli stranieri e 35 miliardi in meno di prestazioni sociali destinate ai immigrati. Il saldo è... dunque, perdiamo 73 miliardi e ne guadagniamo 35, se volete metterla così, quindi il saldo negativo è di 38 miliardi. Eccolo qua, l'INPS, un buco di 38 miliardi con la chiusura delle frontiere. Ed ecco che giornali, La Verità, per esempio, si scatena, dice Boeri sugli immigrati, dai numeri, senza di loro perdiamo 38 miliardi. Ma anche Il Giorno critica molto con Alessandro Farrugia, mette altri numeri, dice... Boeri dice che senza gli stranieri c'è un buco dell'INPS, ma solo di welfare costano 16 miliardi. Ci sono altri studi, come uno studio dell'OCSE del 2013, secondo cui i migranti non hanno né portato né sottratto ricchezza. Lo studio relativo ai paesi OCSE, cioè i paesi sviluppati, Stati Uniti, Canada, Australia comprese, ha mostrato come l'effetto cumulativo delle ondate migratorie succedutesi negli ultimi 50 anni nei paesi sviluppati ha avuto un effetto vicino allo zero, oscillando tra meno 0,5 e più 0,5 del PIL. In alcuni paesi come Svizzera e Lussemburgo l'impatto è stato positivo, più 2% sul PIL delle ondate migratorie degli ultimi 50 anni, in altri negativo. Insomma, la summa di tutto questo è che gli immigrati non sono un peso, ma neanche una panacea. Per cui dobbiamo credere ai dati forniti da Boeri, dobbiamo credere ai dati macro, cioè Boeri ovviamente sull'Italia, l'OCSE invece sui vari paesi, dicendo che i flussi migratori di 50 anni hanno avuto effetto di fatto zero sul PIL, né crescita ma neanche decrescita. Non si sa. Sapete che in economia è il settore dove i numeri sono più ballerini, invece di rispettare le semplici regole della matematica talvolta. In tutto questo riparte, in questo clima, il dibattito sullo ius soli. Ricordate che deve sostituire nella sua forma temperata lo ius sanguinis. La battaglia ingaggiata non si fermerà. Renzi dice, fa sapere Repubblica, è una battaglia sacrosanta che vale una legislatura. Su questo il governo è pronto a porre la fiducia, come racconta Giovanna Casadio su Repubblica a pagina 6. Le opposizioni sono pronte a occupare, alcuni dice occupiamo il Senato. Insomma, in questo clima direi che si scontrano varie posizioni ben poco conciliabili, ma di tutto questo sa, e non solo di questo, il nostro buon Mauro Meazza, signori. Buongiorno Mauro, come stai? Buongiorno, buongiorno, ero qui con Risico con i carri armati. Infatti, tu li hai visti? Ma sì, sul Risico, non giocavi a Risico tu da ragazzo, come no, forse anche come adesso, non so. Come difendevo la Kamchatka, guarda. La Kamchatka che è rimasta nei nostri cuori, vabbè. la buttiamo un po' così, perché invece, come citavi appunto dall'articolo di Beda Romano oggi sul Sole 24 Ore, la questione è parecchio seria e vediamo, arrivano anche nuovi fondi, c'è un piano che si tratta adesso di mettere in pratica, ma vediamo. Intanto ti vorrei dire che tu però, preso anche da giustamente da notizie importanti, mi stai un po' trascurando lo split payment. Sì, ammettilo Alessandro, ammetto, così. Guarda, non ammetto tantissimo. Allora, lo ammetto, oggi, cioè, prof, io non sono come no, Donnarumma, rinvio di un anno. Sei andato a Ibiza. Rinvio di un anno. Sì, sono andato a Ibiza, questo sì lo sai. Infatti sei andato a Ibiza anche tu, vabbè, comunque puoi rimediare, perché oggi sul Sole 24 Ore, guarda che è importante, c'è un'istanza nuova per i rimborsi IVA, che accelera, sai che con la manovrina si è detto che si accelera sui rimborsi IVA, che è parecchio importante. Allora, leggi religiosamente, come sempre devi fare norme e tributi, ma poi ti spieghiamo anche che lo split payment ha pure le sue eccezioni nella pagina successiva, quindi ti inviterei a fare tesoro di tutto questo, ti do ancora qualche giorno per impegnarti un po' di più sullo split payment. Intanto non ti scordare che oggi con il Sole 24 Ore c'è un focus dedicato alla riforma del processo penale. Se ne è parlato parecchio, poi la cosa sembra un po' trascurata, ma è andato in Gazzetta Ufficiale, sarà operativo con le sue novità dal 3 di agosto, ma con tutta una serie di decorrenze da studiare. Allora te lo spiega Giovanni Negri, sempre su norme e tributi. Oh, e poi c'è una promessa importante. Il ministro o ministra, come ti piace di più? Ministro. Vabbè, se tu mi chiami giornalista, io la chiamo ministra. Allora, il ministro o ministra Valeria Fedeli ha detto che entro il 14 di agosto, te lo stai segnando? Eccolo qua. Oh, segnatelo, saranno stabilizzati i 52.000 professori. Oh, e quindi non ci sarà il solito valzer delle cattedre di inizio anno. Guarda, te lo spieghiamo sul Sole 24 Ore nelle pagine di Imprese e Territori, che tu sempre leggi. Scrupolosamente. Bravo, ma oggi sei preparato, hai passato. Me ne compiaccio. Oh, naturalmente, su Monte Paschi ci sono le nostre pagine iniziali sulla soluzione che si è trovata, l'accordo che si è trovato con Bruxelles. Ti invito in particolare, oltre alla lettura meditata delle due pagine, a consigliare la bussola con le risposte ai risparmiatori, curate dal nostro Luca Davi. E infine, ma non per questo meno importante, guarda che forse pure Facebook c'ha una stabile organizzazione in Italia. E tu dici, allora? Devi dire, e allora? E allora? No, allora? Aspetta, fammi. E allora? E allora? Allora forse devono pagare più tasse di quelle che hanno detto di pagare. Ecco, questo apprenderai sempre leggendo oggi il Sole 24 Ore. Molto altro ti vorrei dire, ma per il momento mi fermo qui, caro Alessandro. Studia lo split payment. Lo farò. Fai il bravo. Farollo. Traffico. Ma chi se ne frega? L'urlo di guerra prima di entrare a scuola. Vabbè, dai, spero che anche nelle vostre località di vacanze, dolcissime bambine, possiate urlare a tutti chi se ne frega, un po' come fa Piero Angela. Oh, questa è un'intervista che andrebbe stampata, letta nelle vostre scuole, in tutte le scuole italiane. L'intervista a Piero Angela sul Corriere della Sera, Paolo Conti. Il punto di partenza è che al Foglio il direttore Claudio Cerasa ha lanciato l'appello: fate senatore a vita Piero Angela. Lui tra l'altro dice: ma no, ho risposto, sono lusingatissimo, ma lasciamo stare, voglio fare il mio lavoro, speciale Super Quark, stiamo registrando, io alla Rai ho rifiutato anche la direzione di un TG, di una rete, non sono fatto per certi ruoli. E quindi Piero Angela mette da parte questa proposta. Ma poi ecco cosa dice: la politica, racconto nei miei libri, nei secoli, nei millenni, non ha mai concretamente migliorato le condizioni di vita della gente comune, non ha mai prodotto ricchezza né benessere. La base è rimasta povera, ignorante, malata, analfabeta. Tutto è cambiato sulla scena del mondo con le macchine, l'energia che ha moltiplicato pani e pesci. Quando mio padre era giovane in Italia i contadini erano il 70%, oggi il 4%. Gli analfabeti erano l'80%, oggi c'è la scuola di massa. Ecco, la politica, sentite politici, sentite Piero Angela, la politica può essere molto importante se favorisce questo processo, gestire e distribuire bene la ricchezza che nasce da tecnologia e energia. Ma se le maggioranze cambiano di continuo, se si litiga, se si parla solo di legge elettorale, nessun progetto diventa possibile. Piero Angela, ci vorrebbe un pacchetto per il futuro di un paese come il nostro, che dovrebbe essere composto da innovazione, tecnologia, educazione, valori. Invece in Italia facciamo l'esempio della scuola. Si parla di precari, scuola laica e cattolica, sicurezza degli edifici, ma rarissimamente si parla del vero problema: come migliorare la qualità e il livello dell'insegnamento. E poi in Italia non si premia il merito, il valore, l'autentica capacità. Signori, Piero Angela, stampatela e leggetela in tutte le scuole questa intervista. Ah no, è perché il problema di leggere nelle scuole, che magari in qualche scuola qualcuno non è d'accordo con quello che dice Piero Angela. Va bene, dai. Allora, nel mondo si guarda tutti con preoccupazione, ma lo si fa da anni e non si trova una soluzione. All'ultima, non si può neanche definire boutade, ma cosa veramente concreta, è minaccia di Kim Jong-un, leader della Corea del Nord, dove hanno lanciato un vettore intercontinentale, primo esperimento riuscito, con l'America molto preoccupata perché il missile, come racconta Guido Santevecchia, pagina 14 del Corriere della Sera, piombato all'interno delle acque giapponesi a 200 km dalla costa, valutando l'apogeo, la traiettoria, secondo alcuni esperti occidentali, ha con un diverso angolo di lancio la possibilità di viaggiare 6.700 km e mettere nel mirino l'Alaska. E quindi ecco che la minaccia nordcoreana, come faccio vedere in diretta anche sulla mia pagina Facebook, è una minaccia sempre più concreta. Il missile ora può colpire l'America. Succederà? Non succederà? Ci auguriamo ovviamente tutti di no, però è chiaro che questo può accadere. Oh, c'è anche molto sport sui giornali, ma è tracimata dalla vicenda sportiva, la vicenda di Donnarumma, che sembra ormai vicino alla firma del rinnovo col Milan, ma il suo procuratore Raiola ha posto delle condizioni incredibili. Intanto guadagnerà 30 milioni di euro, 5 anni, 6 milioni all'anno. Poi ha imposto anche l'acquisto del fratello, 1 milione di euro l'anno, anche lui fa il portiere. Non lo si conosceva fino a questo momento. Poi cosa ha fatto Donnarumma? Invece di presentarsi al diploma per la maturità, per il quale aveva avuto una dispensa, nel senso che ha prima fatto gli europei di calcio, quindi gliel'hanno rinviato, gliel'hanno hanno atteso Donnarumma, ieri era atteso a Vigevano per dare il diploma di maturità e lui ha detto, sapete che c'è? O meglio lui, il suo procuratore, no, Donnarumma, gli ho preso un aereo privato, è volato a Ibiza, vuole concentrarsi su altro, la maturità può aspettarsi. Ma grandi polemiche su Donnarumma, coperto d'oro e tra l'altro che rifiuta la maturità, o meglio la rimanda. Va bene, trovate molto sui giornali, come trovate la pagina più inutile che c'è sui giornali, la carta costa. Piero Degli Antoni racconta oggi sul Giorno un'intera pagina su qual è il modo perfetto per fare il selfie, soprattutto per le donne, quando mettono la boccuccia a culo di gallina, che si mettono lì con i, a fare i selfie, questo, ecco, mento giù, attenti alle rughe, boccuccia a culo di gallina, eccolo qui, la pagina per il selfie perfetto. Ma chi se ne frega!